Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon fine di serata se invece ci ascoltate in replica alle 20.45. Ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it e il mio blog sulla prima pagina del Sole 24 Ore online si chiama Guardie o Ladri, oppure digitate robertogalullo.blog.ilsole24ore.com e lo trovate. Sapete che mi piace parlare con voi anche attraverso questo mezzo. Allora, ricordo che quando ero ragazzo i miei genitori furono obbligati, ebbene sì, a fare delle lunghe file notturne per potermi iscrivere alle scuole dell'obbligo. Erano costrette a rimanere all'addiaccio e tentare di essere così fortunate da iscrivere il proprio figlio, il sottoscritto, e mio fratello, magari con una preferenza anche per la sezione. Non sono più un bambino, non sono certamente neppure anziano, ma di anni ne sono passati. E oggi fa un certo, come dire, scalpore o sorpresa leggere sulle pagine del Gazzettino di Venezia, lo leggo da una cronaca del 29 gennaio, che a Marcon, un paese appunto nella provincia di Venezia, il Gazzettino titoli "Una notte in coda per il posto all'asilo, i genitori alla scuola parrocchiale". Ebbene, per farla appunto sintetica la storia, alcuni genitori sono stati costretti a passare la notte in macchina, poi per fortuna le porte della parrocchia sono state aperte per iscrivere i propri figli alla scuola d'infanzia. In questo caso parliamo della scuola parrocchiale paritaria di Marcon. Per cercare di capire come è possibile una cosa del genere, ancora oggi io ho chiamato a interloquire con me il sindaco di Marcon, Pierantonio Tomasi. Buongiorno Tomasi. Buongiorno. Che rappresenta una giunta di centrosinistra, il consigliere Andrea Scantamburlo invece dell'opposizione, quindi è del PDL. Buongiorno Scantamburlo. Buongiorno a lei, buongiorno ai suoi ascoltatori. E Fabio Vivian, che è il padre di un ragazzo che ha trascorso la serata fuori in attesa di scrivere il proprio figlio. Buongiorno Vivian. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io direi proprio di partire dalla sua storia, Vivian. Ci dica come ha trascorso la serata e se nel momento in cui ha deciso di andare a scrivere suo figlio sapeva che avrebbe probabilmente passato una serata, diciamo così, diversa dalle solite. Diversa dalle solite sicuramente. Niente, succede questo, che come ogni anno, perché ormai questo si ripete da un paio d'anni, anzi mi sembra di dura da 5 anni, che non avendo una sicurezza del posto d'asilo, in qualche modo ci si deve andare. Ecco, ma quanti sono gli asili a Marcon? È l'unico o ce ne sono degli altri? C'è questo parrocchiale ed un altro comunale. E poi però è comprensivo di un altro asilo. Ma che lei sappia, nella frazione di un altro agaggio in un'altra frazione. Ecco, che lei sappia, Vivian, poi lo sentiremo dalla voce del sindaco ovviamente, anche nell'asilo comunale si ripetono le stesse scene oppure è soltanto in questo asilo paritario? È un po' diverso perché c'è una lista che poi in base ai diritti, a seconda quindi della graduatoria, si entra o non si entra. Ecco, io Viviana la ringrazio intanto per questa sua prima testimonianza. Mi pare corretto e doveroso passare la parola subito al sindaco Pierantonio Tomasi per capire se effettivamente nell'asilo comunale funziona in maniera diversa e come mai da alcuni anni, abbiamo sentito attraverso la voce di Viviana, si verificano queste lunghe code notturne. Di cosa si tratta? Difetto di programmazione, mancanza di strutture? A lei la parola, sindaco. Beh, credo sia basato un po' sulla scelta, perché la scuola materna parrocchiale ovviamente ha per noi una funzione, per alcuni, diciamo, da alcuni punti di vista, di sostituzione di una carenza che è cronica delle scuole materne in genere. volevo precisare che l'aspetto legato al non è una scuola dell'obbligo, e è sulla base, diciamo, dei programmi che fanno le amministrazioni. Vorrei ricordare anche che circa il 60% delle scuole materne in Italia è gestito da o scuole materne parrocchiali o da privati, per cui insomma siamo in una situazione dal punto di vista generale dove non è scuola dell'obbligo e ciascuno cerca di affrontare questo tema con le risorse che ha a disposizione, cercando di soddisfare quelli, certo, che sono i bisogni. Quello che lei dice è molto corretto, non è scuola dell'obbligo, è anche vero che a maggior ragione in un'area come la vostra, vale a dire il Veneto, dove l'occupazione è molto elevata nonostante la crisi che in questo momento il paese sta attraversando, la scuola d'infanzia è comunque spesso una tappa obbligata per i genitori che lavorano, quindi credo sia doveroso, no, che un'amministrazione si attrezzi per, sì, questo, o sbaglio, sindaco? Allora, no, ma è corretto quello, ecco, che lei sta dicendo, ed è per questo che noi stiamo investendo molte risorse in questo settore, quello scolastico, delle infrastrutture in termini generali. Allora, una delle, diciamo, lamentele più ricorrenti è quello che noi non riusciamo a programmare, quella che è la crescita demografica legata in particolare a immigrazioni che provengono dall'esterno per effetto di un sviluppo sul piano del territorio, che vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori cittadini che sta crescendo Marcon da 40 anni in forma quasi omogenea, quindi non è una novità questa, certo, dal punto di vista, diciamo, della dell'impatto che si ha nei confronti della crescita demografica. Noi abbiamo ogni anno risposto a tutte le esigenze che ci sono state, compreso l'anno scorso, quindi questo anno scolastico, dove abbiamo inaugurato una nuova scuola materna a San Liberale che ha messo a disposizione più di 40 posti in più rispetto a quelli che c'erano precedentemente. Stiamo programmando interventi di ulteriore ampliamento dal punto di vista pubblico, ovviamente. La scuola materna parrocchiale è appunto una risorsa per il territorio, per alcuni aspetti appunto è essenziale perché risponde anche a una esigenza pubblica, i genitori la scelgono prima di tutto, dopo per alcuni che hanno delle forti preoccupazioni di non riuscire a trovare posti in quella pubblica, ovviamente c'è la necessità di andarsi ad iscrivere, ecco, e c'è appunto chi sceglie per arrivare prima di altri di fare appunto questo queste tipo nottate. Di ecco, io la interromperei un attimo, sindaco, perché lei giustamente ha terminato il suo intervento dicendo, lo sintetizzo io perché lo leggo anche dalle sue dichiarazioni sul Gazzettino, nessuno rimane senza un posto, abbiamo accontentato tutti. Però, scantamburlo, accade che questa scena si ripete da anni. Allora, come la vede la sua forza politica questa situazione? Sì, allora innanzitutto, come diceva il signor Vivian all'inizio del suo intervento, questo è un caso che non è solo quest'anno che succede, ma già da qualche anno che accade. Io posso parlare da quando sono stato eletto consigliere comunale, quindi dal maggio 2007. Già l'anno scorso ci siamo trovati di fronte al fatto che più genitori dovessero rimanere fuori una notte per cercare un posto in asilo. Quindi, visto che non è la prima volta che questo accade, la gravità del fatto si aggrava dal mio punto di vista. Ecco, ma ci sono delle responsabilità che voi individuate, oppure, perché non è detto che bisogna per forza contrapporsi, no, e dare del torto all'una parte, certo, politica? Certo. Vedete delle responsabilità oggettive o soggettive in quello che sta accadendo? Allora, il discorso di fondo secondo me deve essere preso a monte, bisogna considerare che tipo di territorio è oggi Marcon a fine 2008 aveva una popolazione di quasi 15.000 abitanti, quindi stiamo diventando un paese, non dico grande, ma dalle dimensioni medie. Certo. La programmazione, come diceva il sindaco, in base all'andamento demografico che ci sono stati in questi ultimi anni, dice che è stato abbastanza omogeneo, e su questi dati non posso dare torto, ma va considerato il fatto che l'anno scorso la motivazione che è stata la base di questo problema di posti dell'asilo era stata data dal sindaco dicendo che nel 2005 c'era stato un picco di nascite, esattamente 158, e questo aveva portato a una situazione straordinaria in base alla quale non tutti i posti erano disponibili per far fronte alla domanda. E questa è stata, diciamo, l'anno scorso la motivazione principale di questa cosa. Quest'anno, e noi l'anno scorso l'avevamo già segnalato, avevamo messo davanti un po' alla situazione che ci poteva essere quest'anno, effettivamente purtroppo, voglio dire, come l'anno scorso, anche quest'anno c'è stato questo problema e non si capisce perché quest'anno non c'è stato nessun picco di nascita rispetto alle, ai bambini che dovrebbero essere iscritti quest'anno. Il problema si ripeterà sicuramente nei prossimi anni, perché se noi consideriamo che nel 2008 c'è stato un ulteriore picco di nascite di 161 bambini, questo comporterà sicuramente per gli anni prossimi ad avere lo stesso tipo di problema. Allora, io Scantamburro la ringrazio per il suo intervento, è stato molto chiaro, abbiamo sentito come dire, l'allarme lanciato sui prossimi anni, ma abbiamo anche sentito il sindaco che invece ha detto che la programmazione sta continuando, quindi la situazione è sotto controllo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi tempi. Noi abbiamo preso Marcon come un caso esemplificativo, probabilmente di molte altre realtà sul territorio italiano in cui queste scene simili si ripetono, quindi andremo a trovarne e a cercarne anche delle altre. Per il momento dico grazie ai miei ospiti, grazie in regia a Pietro Lacorte e in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.